English Bit di Giulia Crivelli. Cold. The US sneezes, the world catches a cold. Se gli Stati Uniti starnutiscono, al mondo viene l'influenza, come quella che ho un po' io, o comunque un forte raffreddore. Si intitola così, prendendo spunto da un'espressione creata alcuni anni fa, uno studio uscito di recente sulla crisi dei mutui subprime, scoppiata nel 2008 ma di cui ancora paghiamo le conseguenze. A ben guardare si trattò di molto di più di un sneeze, di uno starnuto, e il mondo prese ben più di un'influenza. Con il fallimento, legato appunto ai mutui subprime, della banca d'affari Lehman Brothers nel settembre del 2008, iniziò una crisi economico-finanziaria che contagiò il mondo intero, Stati Uniti compresi. Ma vediamo la parola cold, che ha tanti usi, alcuni non troppo conosciuti. Oltre al già citato significato di forte raffreddore e influenza, possiamo citare l'espressione a cold fish, che forse in italiano potremmo tradurre con pesce lesso. A person who seems unfriendly and without strong emotions. To get or to have cold feet significa invece spaventarsi tutto a un tratto. He was going to ask her about her marriage, but got cold feet and said nothing. Stava per chiederle qualcosa del matrimonio, ma poi si spaventò e non disse niente. In cold blood è l'equivalente del nostro sangue freddo e si dice quindi to kill somebody in cold blood, uccidere qualcuno a sangue freddo. Più particolari altri usi. Cold calling, ad esempio, significa telefonare a qualcuno per cercare di vendergli qualcosa, una pratica molto diffusa anche in Italia e contro la quale si è mossa di recente l'antitrust. I cold cuts sono quelli che noi chiamiamo affettati, di carne si intende. To give somebody a cold shoulder, cioè dare a qualcuno letteralmente la spalla fredda, significa trattare qualcuno in maniera che rasenta la scortesia e non appare del tutto giustificata. Cold spell è un periodo in cui le temperature sono insolitamente o inaspettatamente rigide per la stagione. Poi, per tornare a qualcosa che ha un corrispondente molto simile nella nostra lingua, c'è cold sweat, sudore freddo. I woke up in a cold sweat about the interview. Mi svegliai tutto sudato per via del colloquio di lavoro. Attenzione quindi a interview, che significa sì intervista, ma anche appunto colloquio di lavoro. Finiamo con l'espressione composta forse più famosa, Cold War, la guerra fredda, nata per indicare quella sorta di tregua armata che per tanti anni caratterizzò i rapporti tra Stati Uniti e ex Unione Sovietica o comunque blocco sovietico e che forse, almeno in parte, sopravvive ancora oggi.